figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buongiorno, benvenuti a tutti da Valentina Furlanetto a questo appuntamento con il sociale. In principio, non so se lo ricordate, c'è stato quel missionario che dal Congo ha deciso che era più grave la situazione dei bambini di Adro, provincia di Brescia, rimasti a pane e acqua a scuola, rispetto ai bambini che stanno in Africa, e ha mandato quindi dal Congo all'Italia 700 euro. Adesso è la volta di una ONG africana che si chiama Poveri Voi. È la prima ONG africana che porta aiuti umanitari all'Italia. Un'iniziativa davvero singolare. Il suo scopo è trovare una soluzione al disagio diffuso tra i giovani italiani. Bambini lasciati per ore davanti ai videogiochi, adolescenti con problemi di bullismo e disturbi alimentari, ma anche giovani manager stressati, depressi, che hanno perso il contatto con il flusso naturale della vita e con la natura. Abbiamo parlato con Ruffin Do della Costa d'Avorio, che è il responsabile dei progetti. Il nostro progetto parte da una domanda che è: cosa può fare l'Africa per l'Europa, a parte mandare le materie prime, chiedervi di darci i soldi per costruire questo? E noi ci siamo chiesti cosa potevamo fare per voi. Intendiamoci bene, non è una questione di Africa migliore, Europa peggiore, è un semplice rendersi conto di quanto l'uomo si stia allontanando dalla sua umanità. E noi, per fortuna, questa umanità ce l'abbiamo ancora, magari sparirà, però per adesso che l'abbiamo volevamo condividerla con voi. È per questo che noi abbiamo deciso, non come le ONG normali, finanziamenti per questo, no. Noi vogliamo lavorare sull'uomo, perché l'uomo adesso è molto infelice dalla solitudine, dal fatto di sposare quell'idea di tutto dipende esclusivamente da te, perciò uno si dà da fare, quando questa cosa non riesce a farla, buongiorno alla depressione, sono un fallito, sono questo, perciò noi abbiamo deciso di spostare i punti di vista della gente, nel senso che prendiamo la gente qua, la portiamo lì a vivere nelle famiglie. Senta, ma avete già avuto delle richieste da parte di italiani in difficoltà che vorrebbero andare in Africa, ad esempio, e vivere questa esperienza? Beh, io invece di dire persone in difficoltà, li chiamo piuttosto persone curiose. Andare lì, scoprire per esempio il semplice fatto di essere al chiaro di luna, di notte, o attorno a un fuoco a raccontarsi delle favole o delle fiabe, o guardarsi il cielo che in città non si vedono più le stelle, e vivere la vita di una famiglia normale, che vuol dire tu sei in quella famiglia e cerchi di proprio integrarti a quella famiglia. Alcune persone ci hanno già chiesto di partecipare a questo progetto. Sono in 5 che dovranno venire con noi per, come si dice, il primo esperimento di questa nostra follia, io la chiamo. E quando ci sarà questo viaggio? Ottobre 2010 partiamo. Michel Coffi è invece il responsabile dei progetti italiani. Il progetto prevede un ribaltamento un po' della visione della cooperazione, una cooperazione che sarà basata su il senso umano, dove l'Africa può contribuire attraverso comunque alcune virtù della sua società, e dunque un scambio fra modo di vivere e modo di intendere il mondo con chi in Italia vuole comunque fare questo scambio. E praticamente che cosa fate per queste persone? Cioè, il progetto adotta un bambino italiano. Questo concetto inventato dall'Occidente, che consiste comunque a adottare dei bambini nei paesi dove ci sono comunque delle difficoltà concrete, che sono difficoltà materiali, allora questo concetto e può essere anche applicati a dei bambini italiani dove sono confrontati a dei problemi di solitudine. Senta, leggo dai vostri dal vostro sito, il 22% dei giovani italiani è tecnodipendente, quindi ha una dipendenza dal computer, da internet, dalla tecnologia. Sì, dalle tecnologie. E questo, comunque, le famiglie sono confrontate a questo problema. Per esempio, toglie un giovane, un bambino di una puntata della televisione per dirgli di andare a studiare, è tutto comunque una fatica. Dunque e poi non parliamo dei videogiochi, che sono veramente una piccola prigione per i bambini, che si chiudono e non riescono comunque a mollare questo strumento lì. Cosa proponete per questa tecnodipendenza? Proponiamo comunque dei momenti di socializzazione da fare, da realizzare assieme a dei volontari. Proponiamo comunque cose più concrete. Quello per il momento non abbiamo la possibilità di mandare questi bambini in Africa, ma comunque so che in Francia ci sono delle colonie di scambio con dei villaggi africani dove francesi vanno a fare questo scambio per vedere comunque il modo di vita di questi bambini africani e scambiarsi. Lasciamo questa iniziativa curiosa e parliamo di un'altra iniziativa, questa volta di WIND. Si chiama 10 decimi ed è un progetto di solidarietà interattiva che consente di seguire quotidianamente attraverso il sito web la realizzazione del progetto che si è deciso di sostenere. Il sito web è www.10decimi.org. Noi abbiamo parlato con Antonella Centra, che è la presidente. 10 decimi è un progetto che nasce in occasione del 10° anniversario di WIND. E abbiamo deciso di regalare all'azienda, di regalare ai dipendenti un progetto che uscisse un po' dall'ordinario. E quindi abbiamo creato un comitato, che è un comitato assolutamente separato da WIND, perché proprio l'obiettivo è di non inquinare con elementi di natura commerciale, questo comitato che si chiama 10 decimi. Intanto 10 decimi, perché 10 decimi? Perché 10 decimi è la vista perfetta, quindi diciamo il tema di questa iniziativa è quello di mettere a fuoco la solidarietà. E l'unicità di questo progetto è il fatto che per la prima volta una serie di onlus sono state chiamate a lavorare insieme, e quindi anche per noi è un'esperienza unica vedere l'energia e lo scambio che le sinergie che si stanno creando. Inizialmente c'era un po' di diffidenza e poi via via invece si sono create sinergie e scambi anche su aree diverse da quelle del progetto. Ma che cosa fate concretamente? Il progetto è focalizzato sul bambino nelle tre, e quindi a 360 gradi, nelle tre macro aree di salute, scolarizzazione e sorriso. In Italia? In Italia e anche all'estero, ci sono progetti sia in Italia che all'estero, sono onlus che lavorano sia in Italia che all'estero, abbiamo una bella varietà, nel senso che abbiamo per esempio Apurimac che lavora in Perù e che nell'ambito del progetto della scolarizzazione, così come l'associazione Italia-Uganda che lavora in Uganda, poi abbiamo Sole Terre che lavora in Ucraina. Quindi diciamo nelle tre macro aree di salute, scolarizzazione e sorriso abbiamo raccolto 10 onlus, ognuna delle quali con un progetto specifico da raggiungere nell'ambito di queste aree. Per esempio nella salute, come le dicevo, c'è Sole Terre che lavora in Ucraina, e quindi l'obiettivo è quello di portare aiuto a bambini malati molto gravi, malati con malattie di tipo oncologico, quindi tumori dove manca tutto, e quindi è una raccolta fondi finalizzata all'acquisto di medicine, cioè ad alleviare, a risolvere quei problemi che forse nella nostra quotidianità, vivendo in un paese dove c'è il benessere, non ci rendiamo conto che ci sono situazioni in cui manca proprio la base. Invece per la scolarizzazione mi sembra Uganda, Perù e Filippine sono i tre paesi. Uganda, Perù e Filippine, per cui l'obiettivo nel progetto quello dell'Uganda l'obiettivo è quello di aumentare la scolarizzazione dando un pasto ai bambini, cioè si era notato che uno dei problemi che i bambini avevano era il fatto che, non avendo le scuole la possibilità di avere una mensa, i bambini, cioè c'era proprio un problema di impossibilità per il bambino di andare e di rimanere a scuola. Quindi diciamo l'obiettivo è quello di incentivare la scolarizzazione aumentando, dando la possibilità a chi frequenta la scuola di avere un pasto caldo, e quindi anche per i genitori è una forma di, vengono sollevati, no, da un tema che è quello della carenza del cibo e dell'acqua del quotidiano. Apurimac invece opera in Perù, per cui sulle Ande, e quindi contribuisce a due progetti che sono un orfanotrofio appunto nelle Ande, con la raccolta fondi specifica per questo in 10 decimi. L'obiettivo è quello di acquistare un pulmino per evitare che i bambini, per andare a scuola, debbano ogni giorno sottoporsi a 4 ore di cammino. Ed è tutto per questa puntata di Figli di un Dio Minore. Io vi rinnovo l'appuntamento per domenica prossima, 14:15, sempre sulle frequenze di Radio 24 e sulle 24 ore. Buona giornata e buona domenica a tutti.